America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Bene, vi ho fatto ascoltare un estratto di Rogue One, nuovissimo film appena arrivato nelle sale cinematografiche americane. Pensate, nel primo giorno ha fatto 157 milioni di incasso, quasi un record, probabilmente finirà per fare un record. Grande filmone che poggia su Star Wars, anzi diciamo uno spin-off di Star Wars. È una storia che precede forse Star Wars e dunque crea una sua epopea. Grande tecnologia, grandi effetti cinematografici e, beh, insomma, in questi momenti difficili, perché l'economia sappiamo come sta andando, la gente si rifugia al cinema. Ma non solo si rifugia, va al cinema soprattutto a Natale. La tradizione vuole che nella stagione natalizia, beh, vengano rilasciati i film più importanti dell'anno, quelli che poi finiscono per concorrere agli Oscar. Il giorno di Natale, spessissimo la tradizione è che dopo il pranzo di Natale si va tutti insieme al cinema. Il cinema ci fa sognare, ci rassicura. Abbiamo visto quest'anno dei film straordinari. Ve ne cito, guardate, rapidamente due o tre che secondo me sono significativi anche per un umore americano e di riflesso un umore che può riguardare anche noi. Un film che mi ha colpito molto è Hidden Figures, che è la storia di queste tre afroamericane che lavorano come scienziate alla NASA, sono delle matematiche, e una di loro riesce a identificare la curva di rientro della navicella spaziale con cui John Glenn potrà fare la prima orbita e quindi concorrere con l'Unione Sovietica, che nello spazio c'era già stata. Un'altra di queste ragazze invece impara a far funzionare questi straordinari computer dell'IBM. Insomma, è un film che quando l'ho visto ha raccolto il più caloroso applauso che abbia mai sentito recentemente. Perché? Beh, perché è una risposta, se vogliamo, all'atmosfera un po' di chiusura, alle tensioni razziali che hanno caratterizzato anche questo 2016, al trumpismo che arriva, che gode degli appoggi di alcuni personaggi che sono segregazionisti. È uno dei film rappresentativo del grande sogno americano. La La Land, film meraviglioso, una fuga romantica e fantastica, un musical che comincia su un'autostrada, immaginate, dove ci sono tutte queste macchine ferme e la gente salta fuori dalla macchina e comincia a ballare con questa musica, subito ti dà una carica straordinaria, ma il punto di questo film, secondo me, è che ci riporta al romanticismo vero, al romanticismo degli innamorati, di quelli che si guardano e soltanto guardandosi si accorgono di essere innamorati l'uno dell'altro. Mi domando se questo film, che ha avuto un grandissimo successo, non rappresenti anche un ritorno al romanticismo. Altro film che mi ha interessato molto è The Arrival. Arrivano degli extraterrestri, non si capisce che cosa vogliono, una linguista riesce a stabilire un rapporto e un dialogo, alla fine si capisce che il problema è un problema di comunicazione, e questo film diventa un film molto attuale, molto contemporaneo, perché oggi noi viviamo in un'epoca in cui è difficilissimo comunicare, soprattutto sul piano politico, dove la polarizzazione domina, soprattutto fra paesi, fra gruppi etnici. Insomma, il dialogo, il recupero del dialogo è fondamentale, e questo film in qualche modo ci dà speranza, perché ci dice, ci spiega, tra l'altro anche bello, un bellissimo film, molto divertente, con grandi effetti, ci dice che il dialogo è possibile. Ecco, io mi sono dilungato un pochino su questi tre film, ma vorrei usare queste considerazioni come spunto per una chiacchierata con Antonio Monda, direttore della Festa del Cinema di Roma, professore di storia del cinema qui alla New York University e dunque il vero grande esperto. Buongiorno Antonio. Buongiorno, grazie per avermi ospitato un'altra volta. Ma Antonio, ma scherziamo. Allora, intanto ho detto delle stupidaggini, no, riassumendo. No, assolutamente nessuna stupidaggine. Perché tu sei il maestro, il professore, capito? Io mi sono lanciato con passione, dunque. Se mi chiedi un parere da storico del cinema, l'unico film, secondo me, dei tre che ha un valore estetico compiuto, è La La Land. Gli altri due sono più interessanti per i motivi che hai detto tu, da un punto di vista antropologico, storico. Arrival è anche un buon film, Hidden Figures ha un valore più storico, è un film nobile, ma non è che un bel film, sono due cose diverse. Mentre La La Land c'è proprio una fattura di altissimo livello ed è, come dicono qui, estremamente charming, ti lascia una grande felicità addosso nonostante il film sia malinconico nel finale. Eh beh, sì. Arrival io gli imputo un problema, pur essendo un film di una certa qualità, che 40 anni fa Spielberg l'aveva fatto meglio quel film lì, cioè Incontri ravvicinati. Certo, sì, sì. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Però per poi carità. Nel frattempo sono passati decenni e le cose cambiano. Ed è a questo che voglio arrivare. Cioè, noi siamo a metà, siamo fra Natale e Capodanno. Ci stiamo avvicinando a un anno nuovo che molti temono, perché ci sarà un nuovo corso nella presidenza americana, ci sono una serie di crisi nel mondo. Ecco, quanto un film con questi messaggi positivi per il dialogo, per il sogno americano. L'impatto della cinematografia in generale sul pubblico enorme, tant'è vero che i dittatori di ogni colore hanno sempre cercato di controllare il cinema. Mussolini, per rimanere in Italia, diceva che l'arma più forte era il cinema, quindi certamente hanno un impatto. Poi, per entrare un po' nel merito di questi film, un film come Hidden Figures ricorda, nel momento in cui Trump sta salendo ufficialmente a prendere il posto dell'uomo più potente del mondo, quanto le minoranze, in particolare quella afroamericana, abbia contribuito con forza, in maniera essenziale, al progresso. Gli altri due film, ecco, La La Land è un progetto che io trovo deliziosissimo ma escapista, e Arrival è una riproposizione, bella la lettura che dai tu sul dialogo, sulla necessità di trovare una chiave per parlare, nel caso specifico con alieni, ma ovviamente può essere metafora di chiunque parli un linguaggio diverso. Ecco, però se mi permetti, sì, io segnalerei almeno altri due film. Sì, scusa, prima voglio chiederti una cosa, Antonio. Sì, secondo te La La Land, a me piace, io ho visto parecchi altri film, secondo me La La Land è sopra gli altri, ma può essere davvero miglior film su molte cose, gli Oscar? È uno dei grandi favoriti. Guarda, secondo me sono tre i favoriti. Beh, c'è Manchester by the Sea, molto Moonlight, bello. Sono questi, è una corsa a tre. Ecco, Manchester by the Sea è un dramma molto cupo, è una storia molto introspettiva, un film molto lento, a cui non siamo abituati. In fondo, no? Siamo abituati a film molto ritmici. Anche per la struttura, no? Che è fatta di flashback, di avanti e indietro, e la rivelazione della tragedia che è venuta nella storia di questa coppia avviene circa a metà del film. Non si capisce fino ad allora perché questo uomo è devastato, perché è finito il matrimonio, che cosa è successo. Ecco, ma secondo te è un po' lungo? Potevano fare qualche minuto in meno? Ma guarda, io devo dire l'ho goduto tutto, va controcorrente proprio perché ha un passo un po' più lento, ma non lo trovo noioso, sinceramente. Ecco, Moonlight. Raccontaci. Moonlight, secondo me, è la grande rivelazione di quest'anno, perché è un film, un'opera seconda di un regista di colore che si chiama Barry Jenkins. Sentite, ricordate questo nome perché ne sentiremo parlare a lungo. Ed è la storia di un ragazzo che cresce nel ghetto di Miami, ghetto nero di Miami, e scopre di essere omosessuale. Ed è raccontato in tre momenti della sua vita, a 10 anni, 20 anni e a 30-35. Quindi ha tutto per andare contro quello che è il mainstream di oggi, però è stato candidato a 8 Golden Globe, secondo me sarà candidato a molti Oscar, ed è il grande contender, insieme a Manchester by the Sea, di La La Land. Secondo me è una corsa tra questi tre film, da vedere se prevarrà un progetto delizioso ma escapista come La La Land, un drammone sentimentale come Manchester by the Sea, oppure un film con un tema forte, sociologicamente, antropologicamente parlando, come Moonlight. Su quest'ultimo film c'è da dire un dato che può dargli un leggerissimo favoritismo. Ricorderai che l'anno scorso gli Oscar non avevano neanche un candidato di colore, ci fu tutta la polemica degli Oscar so white. Ecco, questo è un film tutto nero, quindi può essere che la reazione a quell'errore dell'anno scorso possa favorire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, l'ultima canzone del 2016. L'onore della scelta tocca al nostro Antonio Monda. Antonio, hai una responsabilità importante. Cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori? Io vorrei celebrare e omaggiare il premio Nobel per la letteratura di quest'anno, cioè Bob Dylan, con uno dei suoi massimi capolavori, che è Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone di Bob Dylan. you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Scrounging your next meal. How does it feel? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi augura buon anno e vi dà appuntamento al 2017.